Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In ogni buona ricetta c'è un ingrediente segreto che rende il piatto unico e inimitabile. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo una storia che sembra una favola moderna. Lo sfondo è un posto magico, dove non ci sono castelli, ma ville strepitose. La foresta incantata è sostituita da lunghi boulevard costeggiati da palme, e le principesse, invece della carrozza con i cavalli, per spostarsi, usano lussuose limousine. Proprio come lei, la Cenerentola del 2000, Pretty Woman. Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood. La città dei sogni. Alcuni si avvirano, altri no. Ma continuate a sognare. Questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare. Hollywood, distretto di Los Angeles, è la mecca del cinema. Fin dagli anni 20, quando tutti i produttori iniziarono a trasferirsi in California per un motivo particolare. Lì non è valido il monopolio dei brevetti della Motion Picture Patents Company, che impedisce ai concorrenti di realizzare film. In California c'è libertà, possibilità di creare. E quello che oggi conta centinaia di migliaia di abitanti, ma allora era solo un piccolo villaggio, Hollywood, è davvero perfetto. Sole tutto l'anno, vicinanza al mare, alle montagne e al deserto. Tutti gli sfondi naturali sono a portata di mano per girare le scene in esterno. Non c'è luogo migliore. E così, una dopo l'altra, arrivano le troupe, poi gli attori, che diventano dei veri e propri divi, acclamati dalla folla, seguiti da fotografi e da giornalisti. Arrivano anche i grandi autori, chiamati a scrivere i soggetti e le sceneggiature. Hollywood è un'immensa macchina produttiva, il più grande centro di produzione del passato e del presente. Su tutto questo mondo, fatto di parti esclusivi, premiere e cifre a tanti zeri, regnano i produttori, non solo di cinema, ma anche di televisione. È un mondo decisamente eccitante, come dice il primo protagonista di oggi. Il suo nome è Darren Star. Darren Star. Non avrei potuto far niente di più eccitante di questo. Darren Star, fin dal suo arrivo a Hollywood, è più interessato alla televisione che al cinema. Soprattutto vuole dedicarsi alle serie TV, quelle che negli ultimi anni in tutto il mondo, Italia inclusa, hanno avuto enorme successo. Ne abbiamo conferma dalle parole del critico televisivo Massimo Scaglioni. È il genere che in qualche modo oggi assicura maggiormente una tenuta dal punto di vista dei consumi e degli ascolti. Le serie TV, che con un termine tutto italiano chiamiamo telefilm, senza prestare troppa attenzione alla distinzione tra generi e formati, catturano il pubblico di tutto il mondo e le persone di tutte le età. Le storie sono avvincenti, divertenti, vicine al quotidiano. E a differenza di un film che finisce in due ore, il fatto che le vicende siano spalmate in molte puntate permette di affezionarsi ai protagonisti, che diventano degli amici di cui si conosce tutto: stile di vita, passioni, paure, amori. Un esempio su tutti? La sitcom Friends, in cui sei amici, nel corso di 10 stagioni, entrano nel cuore di appassionati di tutto il mondo. Ethan ha chiamato di nuovo. Non esci più con lui? No. A volte le cose belle non si possono fare. E c'entra il fatto che gli occorre la giustificazione se Marina la scuola? Io non ho detto proprio niente, lo giuro. È passato di qui. Senti, la prossima volta che gli parli potresti chiedergli qual è il Power Ranger più forte. Oh, sì! La mia vita è davvero così divertente. Cambiamo argomento. Scusa. Trasformazione! Stegosauro! Tirannosauro! For me too. nome Star è indissolubilmente legato ad alcune delle serie TV americane di maggior successo. E pensare che Hollywood, per il piccolo Darren, era un mondo lontanissimo. Siamo nel 1961, in una piccola cittadina di provincia del Maryland dove tutti si conoscono. La famiglia Star abita in una casetta indipendente, con un giardino curatissimo e un grande cane. Ogni mattina un ragazzo passa veloce in bicicletta sul vialetto e lancia il giornale vicino alla porta d'ingresso. Il papà, odontoiatra dai modi cortesi, lo raccoglie e saluta con la mano. Il piccolo Darren è un bambino educato e sognatore che spesso sta in disparte a leggere. E la mamma, scrittrice freelance, che gli consiglia i libri indispensabili. Quando i compagni lo prendono in giro perché non gioca con loro, sa difendersi benissimo. Il sarcasmo è la sua arma e colpisce molto più forte dei pugni. È lui stesso a ricordarlo. Mi piaceva fare battute e a volte erano utili per sopravvivere. L'umorismo ti salva sempre, in ogni situazione. Darren si nutre di cinema e televisione. Alimenta il suo immaginario in tutti i modi possibili. Soprattutto gli piace ridere, guardare i programmi comici e gli sketch storici che non lo annoiano mai. Ha una fantasia galoppante. Si perde continuamente nei suoi pensieri e si diverte a scrivere storie con descrizioni minuziose. Fino a quando la provincia comincia a non bastargli più. Lui è un entusiasta, intraprendente, ha voglia di conoscere il mondo. Per questo, al momento di iscriversi all'università, sceglie di trasferirsi in California. E il primo impatto è sconvolgente. Appena sono arrivato, ho visto per strada tre attori che conoscevo. Mi sentivo in un film. Tutto quello che avevo immaginato era lì, a portata di mano. Negli anni Ottanta, passato il periodo dell'impegno civile, la parola d'ordine è divertirsi. Soprattutto a Los Angeles, dove ogni giorno c'è una festa, una presentazione, un grande evento a cui non bisogna mancare. Anche perché è proprio tra un bicchiere di champagne e una fetta di torta che riescono meglio le pubbliche relazioni e si creano opportunità. Proprio quello che una sera succede a Darren. Grande cena di beneficenza nel cuore di Hollywood. Le celebrità hanno pagato cifre stratosferiche per esserci, soprattutto per far vedere che ci sono. Uomini elegantissimi in smoking e donne in abito lungo attraversano lentamente l'ingresso camminando su un tappeto rosso, mentre decine di fotografi scattano ai loro lati. Darren, neolaureato che viene dalla provincia, non è stato invitato. Non è una personalità importante, però il suo amico figlio di un regista gli ha chiesto di accompagnarlo. Per puro caso Darren è seduto vicino a uno degli uomini più influenti del panorama televisivo mondiale, il grande produttore Aaron Spelling. I due parlano per tutta la cena e Darren, con molta naturalezza, gli racconta cosa vorrebbe vedere in televisione che ancora non c'è. E senza accorgersene, fornisce a Spelling una serie di spunti esplosivi. A volte il destino serve le sue possibilità su un piatto d'argento. A ricordare il momento è lo stesso Spelling. Me lo ricordo. Quel ragazzo mi ha colpito subito. Era brillante. Aveva delle idee geniali per la TV. Totalmente nuove. Non potevo crederci. Dal giorno dopo, Spelling e Star iniziano a lavorare gomito a gomito. Scrivono tutto il giorno. Spesso saltano anche la pausa pranzo per non interrompere la creatività. Spelling è nel pieno della sua carriera. Ha già prodotto serie TV celeberrime come Dynasty, Charlie's Angels, Starsky e Hutch e Love Boat, fortunatissima in Italia con la sigla cantata da Little Tony, così famosa da entrare in Hit Parade. Dopo tutti questi successi è difficile superarsi. Serve un'idea nuova, fresca, che conquisti il pubblico più giovane. Darren è l'uomo giusto, brillante, intelligente, profondo conoscitore delle dinamiche televisive e pronto ad affrontare sfide nuove. Soprattutto, entusiasta di ciò che gli sta succedendo. Ho sempre amato la televisione, ma non avrei mai pensato di arrivare a lavorarci. E invece ero lì, con Aaron Spelling che mi chiedeva consigli. Star ha un obiettivo molto ambizioso. Ideare con Spelling una serie che sia all'altezza delle precedenti. Una serie che conquisti il pubblico, che appassioni, che faccia venir voglia di non mancare all'appuntamento del palinsesto per non perdersi nemmeno una puntata. Sa che l'ispirazione non arriva a comando, quindi va a correre sulla spiaggia per liberare i pensieri. Ed è qui che un giorno, vedendo due ragazzi che si baciano sotto un pontile, ha un'illuminazione. Gli adolescenti non hanno un programma tutto per loro. Proprio loro, che sono onnivori di cinema e televisione, che sono il target di riferimento di tutto ciò che è nuovo sul mercato, quelli che la pubblicità deve convincere a comprare, non hanno uno spazio che racconti davvero i loro problemi. Un'idea apparentemente semplice e intuitiva, ma di cui lo stesso star si sorprende. Ero sorpreso io stesso. Come avevo fatto a non pensarci? Bisognava parlare dei giovani, interessarsi davvero a quello che pensavano e facevano. Emozionato, eccitato, sudato dalla corsa, senza neanche passare da casa per farsi una doccia, Darren corre in ufficio da Aaron e gli descrive la sua intuizione. Mentre parla, le suggestioni prendono vita una dopo l'altra, naturalmente, come se aspettassero solo di essere innescate. Sta per nascere Beverly Hills 90210, che racconta le avventure di un gruppo di amici e per la prima volta tocca tematiche scomode come la sessualità, l'aborto, i diritti degli omosessuali. Per Darren Star è una sfida a suo modo rivoluzionaria e allo stesso tempo il suo trampolino di lancio per il successo. Beverly Hills funziona benissimo. I giovani di tutto il mondo si appassionano alle vicende di quei ragazzi ricchi e viziati, ma che sembrano avere gli stessi problemi che hanno tutti. È il pubblico più adulto adesso che cerca uno spazio per sé. Ancora una volta, la coppia Star Spelling non delude e produce Melrose Place. Attento, l'ho fatta riverniciare da poco. Grazie. Che c'è? Non tutti hanno una limousine. Darren Star, nel ruolo di produttore esecutivo, diventa in poco tempo milionario. L'idea è sua. È lui che scrive l'episodio pilota, una specie di puntata di prova che contiene il seme di tutti gli elementi da sviscerare e che di solito si manda in onda per vedere se funziona. E queste idee a Hollywood vengono pagate a peso d'oro, come ricorda lui stesso. Mi divertivo da morire a inventare serie TV e mi sembrava incredibile essere coperto di soldi per fare qualcosa che mi piaceva tanto. Darren Star è un uomo affascinante, ricco, geniale e al centro della mondanità di Hollywood. Ogni sera va a una festa diversa, è presente a tutti i red carpet, lo chiamano quotidianamente per fare interviste. Gli addetti ai lavori invidiano il suo strepitoso successo, vorrebbero diventare come lui. Eppure a Darren questo non basta, perché è un creativo e ha bisogno di non accontentarsi mai, di non sedersi sui risultati raggiunti. Ha bisogno di spingersi sempre oltre, di superarsi continuamente. Non per dimostrare agli altri quanto vale, ma per continuare a divertirsi. Perché questa è la chiave per conquistare il pubblico. Scrivere di pancia, raccontare le cose che si sente l'urgenza di dover raccontare, appassionarsi per fare appassionare. E così, per ritrovare un'ispirazione, Darren, come al solito, va sulla spiaggia. Stende un salviettone, toglie le scarpe, prende un libro dallo zaino e ferma lo sguardo sulla copertina. Si tratta di un romanzo che gli ha suggerito un'amica appassionata di chiclet, letteratura da pollastre. Quel genere letterario nuovo, umoristico e tutto al femminile che prende il via con Il diario di Bridget Jones, di Helen Fielding. Un genere molto contemporaneo, che si rivolge alle donne con complicità, sdoganando temi mai entrati con così tanta forza in letteratura come la moda e lo shopping. Esemplare a questo proposito la saga I Love Shopping di Sophie Kinsella, da cui è stato tratto l'omonimo film nel 2009. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare, mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare. Potete entrare anche da questa parte. Ho bisogno di questi guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani, basta e avanza. Comprerò questi e solo questi! Mi allontanerò, forte e parsimoniosa. Ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto! Io ho visto che li lasciava sul banco! Dammeli e non ti succederà niente! Sì! Ora Darren è sulla spiaggia, con in mano il libro che gli ha regalato la sua amica, garantendogli che potrà trarne ispirazione. E così lui, un po' titubante ma incuriosito, inizia a leggere la prefazione dell'autrice, una certa Candace Bushnell. Io ho sempre voluto parlare di personaggi femminili che fossero veri e interessanti. Una frase banale, ma non per Darren, pronto a cogliere ogni stimolo. Alza la testa, si guarda intorno. Alla sua destra due ragazze in piedi che chiacchierano mangiando un gelato. Alla sua sinistra quattro signore che giocano a carte senza smettere di parlare. Arriva un gruppo di amiche che si abbronza, ridendo e commentando i ragazzi che passano. Star, con la mente che una volta innescato il meccanismo va sempre più veloce, continua a leggere le parole della Bushnell. Ho intervistato le donne. Ho chiesto di raccontarmi le loro esperienze. Basta avere gli occhi aperti e ti si apre un mondo. Per Star, una folgorazione. Legge il romanzo tutto d'un fiato, voracemente. È divertito come non lo era da mesi. Quei racconti di donne così sfrontati, irriverenti, sono una novità assoluta. Nel libro la Bushnell racconta donne indipendenti, libere, che parlano di sesso tra loro. A Star basta guardare le ragazze intorno a lui sulla spiaggia per capire che il romanzo è un affresco della realtà. Che tra le donne davvero c'è una complicità, una confidenza, anche rispetto ai particolari più intimi, che tra gli uomini non c'è. Ancora una volta l'idea è a portata di mano. Basta avere la prontezza per coglierla. Questa volta Star è pronto a fare tutto da solo. Mettere in piedi l'idea, costruirla poco a poco, cercare le risorse, la location, il cast. È eccitato. Non vede l'ora di mettersi al lavoro. Corre a casa, si siede sul tappeto con il computer tra le gambe e abbozza un'idea. Quel libro è troppo rivoluzionario per rimanere solo sulla carta. Deve diventare una serie TV. Sta per nascere Sex and the City. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1997. Siamo a Los Angeles, la città del sole, dove tutti sognano di lavorare nel luccicante show business. Darren Star, produttore televisivo di serie di successo come Beverly Hills 90210 e Melrose Place, sta pensando a un nuovo progetto. L'idea gli è venuta leggendo un libro tanto leggero e divertente quanto nuovo e rivoluzionario, scritto da Candace Bushnell, Sex and the City. Il titolo evoca un mondo inesplorato, quello del sesso al femminile, come racconta la stessa autrice. Quando stavo scrivendo Sex and the City e chiedevo alle donne di parlarmi dei loro segreti, mi parlavano di sesso, di come lo facevano, di cosa desideravano. Nemmeno io credevo si sarebbero confidate così. La Bushnell, dal 1994, tiene una rubrica sul New York Observer, in cui può parlare di tutto. La rubrica si chiama Sex and the City, il sesso e la città, e racconta cosa significhi per le donne single vivere a New York, feste, locali alla moda, mostre, spettacoli. Ne esce un affresco incredibile. Le donne a cavallo del terzo millennio cercano sì l'uomo giusto, ma non sono remissive, anzi, lavorano, sono indipendenti, fanno carriera e guadagnano benissimo. Si godono la vita, fanno shopping sfrenato senza sensi di colpa e hanno rapporti sessuali liberi senza sentirsi giudicate. Soprattutto vedono la loro famiglia nelle amiche. Con loro si confidano, parlano dei problemi più intimi, si sentono sorelle. Insomma, come sottolinea la stessa Bushnell, vi dirò la verità, non esiste più il sesso debole. Per Darren Star, parlare di donne in questo modo così nuovo e spregiudicato, politicamente scorretto, a volte è una sfida a cui non sottrarsi. E una sfida ancora più grande è raccontare tutto questo con ironia e sarcasmo, una cosa che gli è sempre mancata nei suoi progetti precedenti. Ho sempre voluto scrivere una serie che fosse anche molto divertente, che usasse il senso dell'umorismo per smorzare i toni, per affrontare anche le questioni più complesse, come avevo imparato a fare fin da piccolo. E così Star si mette al lavoro. Bisogna fare un adattamento del libro per la televisione. Immediatamente chiama l'autrice, si confronta con lei e compra i diritti. Poi, nel suo studio, lavora all'episodio pilota. Lo sfondo resterà a New York, come nel romanzo. È troppo importante per perderlo. Il nucleo centrale sarà composto da 4 amiche single libere in carriera e una di loro, la voce narrante, sarà l'alter ego della Bushnell, la giornalista che racconta il sesso e la città nella sua rubrica. Star si blocca di colpo e alza gli occhi. Bisogna trovarla, questa ragazza. È lei che deve dare vita al personaggio di Carrie, entrare in Carrie con tutta se stessa. Non è facile. Immediatamente chiama l'ufficio casting. Vuole iniziare subito i provini. Enorme sala gremita di gente. In fondo, vicino alle finestre aperte per far entrare un po' d'aria, un lungo tavolo di legno al centro del quale è seduto Darren, pronto a giudicare le ragazze. Di fianco a lui, i suoi collaboratori. Le candidate sono in fila, con un copione in mano. Mentre aspettano il loro turno, ripassano la parte di Carrie, una giornalista brillante alla moda. Sale la prima, scartata senza lasciarla finire. Via la seconda, poco credibile. La terza continua a ridere, Darren si innervosisce. E così, una dopo l'altra, per ore, non ce n'è nemmeno una che possa andare. Qualcuna è il peggio, altre un po' meglio, ma nessuna che sia una vera Carrie. Star, in un impeto di nervoso, straccia il copione e lo lancia dietro di sé. Si chiede se sia opportuno abbandonare il progetto, ormai è stanco e rassegnato. Un suo collaboratore gli suggerisce di prendersi una pausa. Andranno avanti da soli. Darren si alza, prende la giacca e fa per uscire, ma sente la commissione che ride e torna indietro. Una aspirante Carrie è inciampata entrando e ha sdrammatizzato con una battuta. È una ragazza molto magra, fisico da ballerina, con il viso spigoloso. Non è bellissima, ma ha un forte carisma. È affascinante, sexy e al contempo incredibilmente buffa. Darren le chiede come si chiama e lei risponde Sara. Sara Jessica Parker. Il provino di Sara Jessica Parker è un trionfo. Star non ha bisogno di pensarci, la invita a cena per parlare del progetto Sex and the City, per proporle il contratto che la farà diventare Carrie. E Sara, che ha letto il libro e non si è persa una puntata di Beverly Hills 90210 e Melrose Place, non deve lasciarsi convincere, firma immediatamente. Star, soddisfatto e curioso, le fa una domanda. Da dove arriva questa donna così brava e curiosa? Sara Jessica Parker, classe 65, cresce a Nelsonville, una piccola cittadina dell'Ohio, profonda provincia americana. È qui che inizia a esibirsi nelle recite scolastiche e nelle feste di paese. La sua è una famiglia molto modesta. A volte non si riesce ad arrivare a fine mese e a Natale non ci sono soldi per fare regali. I suoi genitori sono sempre in prima fila ad applaudire, a scattare fotografie. Si riempiono di orgoglio quando la vedono ballare e cantare. Dedicano il loro tempo e le loro attenzioni molto più a Sara che agli altri 3 fratelli. Lei questo se lo ricorda bene. Capivo che i miei fratelli si sentivano messi in disparte e ne soffrivo anch'io. Non volevo questo. Ma i genitori sognano Hollywood per Sara. Hanno grandi progetti. La iscrivono a un corso di danza classica. E quando lei ha solo 8 anni, si trasferiscono tutti in New Jersey per permetterle di partecipare a un musical a Broadway. Alla piccola Sara piace stare sul palco, ma a volte invidia le sue compagne che il pomeriggio, invece di avere le prove, possono stare in cameretta a giocare. Di certo è ripagata da qualche soddisfazione, come quando a 19 anni interpreta Footloose di Herbert Ross, il film che racconta la storia di un adolescente che si trasferisce da Chicago a un piccolo centro rurale, dove la danza e la musica rock sono state bandite dal governo locale. Sara è una ragazza vivace, socievole, divertente. E anche se non ha una bellezza convenzionale, i ragazzi si accorgono di lei, la corteggiano. Ha dei grandi amori con attori famosi e ambiti, dei veri e propri sex symbol che ancora oggi sono sulla cresta dell'onda, come Nicolas Cage, Kevin Bacon, Robert Downey Jr. Sara è romantica, sogna il principe azzurro. Ma intanto che lo aspetta, continua a fare cinema, a lottare per interpretare piccole parti. A volte ce la fa anche, ma piano piano sente che la situazione le sta sfuggendo di mano. Capisce che per troppo tempo ha seguito quelli che erano i desideri di mamma e papà più che i suoi e riflette su quello che vuole diventare. Interpretavo bei personaggi e mi piaceva, ma nessuno che fosse davvero per me, che mi appartenesse davvero. Te ne accorgi quando cresci. Torna a lavorare a Broadway, in spettacoli off. E per sua madre è una pazzia rinunciare al grande cinema, al sogno di fama internazionale per esibirsi in un teatro. Ma Sara è fatta così, ci mette un po' a prendere una decisione, ma quando la prende non torna indietro. Inizia a seguire sempre meno i consigli di mamma e papà, taglia definitivamente il cordone ombelicale e decide di fare solo quello che le interessa davvero. Per questo, il giorno del provino per Sex and the City, si è svegliata presto, ha scelto un vestito carino, femminile, ma non troppo audace, ha bevuto un caffè takeaway camminando per la strada e si è presentata all'audizione. Sentivo che era un personaggio perfetto per me. Carrie Bradshaw, finalmente ero io. Potevo esprimermi al meglio. E infatti Darren Star lo capisce subito. Gli serve una trentenne vivace, mondana, brillante, intraprendente, aperta di mente e sarcastica, con la battuta sempre pronta, che abbia una sfrontatezza che non risulti aggressiva. Esattamente come Sara. A ricordarlo è un giornalista. Show creator Darren Star was set on casting her. Il creatore di serie Darren Star, appena le ha fatto il provino, ha capito che Sara sarebbe diventata Carrie. Star, adesso che ha trovato la sua Carrie, ha tutti gli elementi che gli servono per cominciare lo show. Le altre tre protagoniste, Samantha, Miranda e Charlotte, sono state scelte. Ha ingaggiato l'eccentrica costumista Patricia Field per occuparsi dell'aspetto moda e ha affidato una sigla ad hoc a un compositore. In testa ha un progetto ambizioso, una vera e propria sfida. Per la prima volta le donne saranno raccontate senza ipocrisia, in modo schietto, diretto, senza giri di parole. Lo conferma Barbara De Bortoli, la doppiatrice italiana di Sarah Jessica Parker. Per la prima volta in televisione ci sono delle donne che parlano come parlano veramente le donne tra loro, solo che gli uomini non lo sapevano. Quello che ancora nessuno sa, nemmeno Sara e Darren, è che Sex and the City è destinato a entrare nella leggenda. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1998 e Darren Star, produttore televisivo, ha avuto un'idea per un nuovo show, una serie che racconti le donne in modo inedito e rivoluzionario. Si è ispirato a un libro scritto da Candace Bushnell, Sex and the City, e ha scritto un episodio pilota cucito addosso a quella che ne è la grande protagonista, Sarah Jessica Parker, che interpreterà la giornalista Carrie Bradshaw. È una grande sfida, il terreno è inesplorato, nessuno sa come reagiranno le donne di fronte a temi così particolari, anche se per le serie TV il momento è d'oro, come racconta il critico televisivo Aldo Grasso. La serialità ha sfondato in tanti altri campi, piattaforme differenti, modi di consumo, insomma è stata la vera rivoluzione degli ultimi anni della televisione. Ma Star è uno a cui piace rischiare e questo progetto lo entusiasma. Cura tutto nei minimi particolari, vuole confezionare un prodotto sofisticato e ricco di suggestioni, a volte delle vere e proprie citazioni, dei tributi dichiarati. Per esempio, sa che per raccontare in modo magico New York e renderle davvero omaggio, riferimento obbligato è Woody Allen con il suo film Manhattan del 1979. Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ma no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Star ha dedicato gli ultimi mesi della sua vita a Sex and the City, ci crede moltissimo. Soprattutto crede in Sarah Jessica Parker, un brutto anatroccolo di provincia ma dal grande talento che è perfetta per la parte di Carrie. L'ha capito subito quando l'ha vista al provino, era pronto a rinunciare allo show se non avesse trovato la Carrie perfetta, ma poi lei è arrivata e l'ha conquistato con una battuta. È così che la Carrie nella sua testa ha preso corpo. E grazie a Sarah Jessica Parker, se lo show da sogno può diventare realtà. Quando anche gli ultimi dettagli sono stati decisi e tutto è pronto, si comincia. Va in onda Sex and the City. Sono migliaia le donne così in città. Forse decine di migliaia. Le conosciamo tutte e tutti pensiamo che siano fantastiche. Viaggiano, pagano le tasse, spendono $400 per un paio di sandali all'ultimo grido e sono sole. Il giorno dopo, quando Star di primo mattino scende a prendere il giornale per leggere i commenti dei critici, si accorge che Sex and the City ha colpito nel segno. La moglie dell'edicolante ne sta parlando con una cliente e alla conversazione si aggiunge una passante incuriosita. Le donne si sentono rappresentate e per la prima volta sentono di potersi lasciare andare. Sono già legate emotivamente a Carrie, la considerano un'amica, un personaggio vivo, vibrante, una sorella. E gli addetti ai lavori gridano al miracolo. Nasce il fenomeno Sex and the City. Le puntate di Sex and the City vanno in onda prima solo in America, poi in tutto il mondo. Le ragazze, come vengono chiamate affettuosamente le protagoniste, entrano nel cuore delle donne di tutto il pianeta, che si appassionano ai loro amori, alle loro confidenze, alle loro disavventure. Soprattutto a lei, Carrie, un personaggio che è l'alter ego perfetto di Sarah Jessica Parker. Finalmente Sarah ha trovato un carattere vero che la rappresenta totalmente e che le permette di mettere in atto una trasformazione che da piccola attricetta di provincia, senza arte né parte, la fa diventare una vera e propria icona di stile di cui tutti i media parlano. Sarah Jessica Parker is one of the most famous women in Hollywood. La serie dura 6 stagioni, dal 1998 al 2004, e racconta con ritmo incalzante, pungente ironia, l'emancipazione femminile attraverso un punto di vista che è un femminismo tutto nuovo rispetto a quello degli anni 70 e che ribalta i tradizionali ruoli uomo-donna. Gli uomini di fatto sono relegati a coprotagonisti. L'attenzione è sempre sulle donne e sulla loro vita, sulla loro nevrosi e sulla loro forza. Sarah si fa portavoce di tutto questo. Diventa Carrie al 100%, carismatica e strepitosa, come la raccontano i giornalisti. Sarah Jessica Parker è una bellezza originale. Non c'è nessuno come lei. Per Star, un successo planetario che neanche lui avrebbe mai immaginato. Un successo che gli cambia la vita e lo fa entrare a pieno titolo nell'Olimpo dei grandi di Hollywood. Lo show non è un semplice programma TV, ma un vero e proprio fenomeno di costume che ha una potenza esplosiva, tanto da dare il via ad alcune mode, come racconta il critico televisivo Matt Roche. Lo show ha dato il via ai grandi trend, come bere il cocktail Cosmopolitan o indossare scarpe Jimmy Choo. La serie stravolge il modo in cui le donne vedono se stesse e la loro vita sessuale e dà il via a una serie di imitazioni più o meno riuscite, ma che mai eguagliano l'originale. Perché in ogni ricetta ben riuscita c'è un ingrediente segreto che non si può rubare. E questo ingrediente è Sarah Jessica Parker. Senza di lei Sex and the City non sarebbe mai esistito, come ricorda lo stesso Star. Penso che il successo della serie sia tutto merito suo. Senza di lei non ce l'avrei mai fatta. E lei, dal canto suo, non crede ai suoi occhi. È un sogno che si avvera, un'incredibile favola a lieto fine che, da figlia di una famiglia povera, la fa diventare diva acclamata in tutto il mondo. Un'interpretazione che è qualcosa di più. Un riscatto, una rivincita su chi le affidava solo ruoli minori pensando che non ce l'avrebbe fatta a sostenerne altri. E che nel 2004 le frutta un Emmy, il premio più prestigioso per la televisione, il corrispettivo di quello che è l'Oscar per il cinema. And the Emmy goes to... Dead. Sarah Jessica Parker. Sarah sale sul palco emozionata e bellissima, fasciata in un lungo abito griffato, di quelli che hanno contribuito a renderla una regina di stile. E nel discorso di ringraziamento non dimentica nessuno. Le amiche della serie, sue compagne di un viaggio tanto avventuroso quanto eccitante, e il suo produttore, il geniale Darren Star, che ha avuto l'intuito giusto per creare uno dei più grandi cult televisivi di tutti i tempi. Oh my gosh, there were so many people. Oddio, devo ringraziare così tante persone per questo risultato. Per prime le 3 donne con cui ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per 6 anni. E poi Darren Star, l'uomo che ha inventato tutto questo. E gli autori, e tutti quelli che hanno lavorato in Sex and the City. E il pubblico che ci ha amate. E la città di New York che ci ha dato tutte le nostre storie. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.